Will, tuttavia, dopo aver inferto questa stoccata annientatrice, si sentì piuttosto vergognoso, immaginando dal silenzio di Dorotea di aver offeso ancora di più lei, e altresì consapevole di aver tolto le pene a un benefattore. Mi dispiaceva soprattutto, riprese, passando come di consueto dalla denigrazione al panegirico insincero, per la gratitudine e il rispetto che dovevo mio cugino. Non avrebbe molta importanza in un uomo il cui talento e carattere fossero meno brillanti. Dorotea alzò gli occhi, più luminosi del consueto per l'eccitazione, e disse, in tono tristissimo: Se avessi imparato il tedesco quando ero a Losanna, c'erano una quantità di insegnanti tedeschi, ma ora non posso essere di nessuna utilità. Will intravide nelle ultime parole di Dorotea una nuova luce, sebbene ancora misteriosa. L'interrogativo di come era giunta ad accettare Mr. Casebo, che al loro primo incontro aveva liquidato dicendosi che doveva essere una donna sgradevole a dispetto delle apparenze, ora non si poteva risolvere in modo così facile e sbrigativo. Qualunque altra cosa potesse essere, non era una donna sgradevole, non era freddamente intelligente e subdolamente mordace, ma adorabilmente semplice e piena di sentimento. Era un angelo ingannato. Sarebbe stato un piacere cogliere i frammenti melodiosi con cui il suo cuore e la sua anima si esprimevano in modo così diretto e ingenuo. Gli tornò alla mente l'arpa Eolia. In questo matrimonio si doveva essere costruita da sola qualche idillio originale, e se Mr. Casebo fosse stato un drago che l'aveva portata via nella sua tana, semplicemente coi suoi artigli e senza alcuna formalità legale, sarebbe stato un inevitabile atto di eroismo liberarla e gettarsi ai suoi piedi. Ma egli era qualcosa di più intrattabile di un drago, era un benefattore che godeva dell'appoggio dell'opinione pubblica e in quel momento stava entrando nella stanza con tutta l'irreprensibile correttezza del suo comportamento, mentre Dorotea appariva in preda a un rinnovellato senso di inquietudine e di rammarico. E Will sembrava animato dalle proprie meditazioni ammirate sui sentimenti di lei. Mr. Casebo avvertì un senso di sorpresa del tutto esente da compiacimento, ma non si discostò dalla consueta educazione nel salutarlo, quando Will si alzò e spiegò il motivo della propria presenza. Mr. Casebo era meno lieto del solito e questo forse lo faceva sembrare di tanto più incupito e sbiadito, altrimenti lo stesso effetto poteva essere causato dal contrasto con l'aspetto del suo giovane cugino. La prima impressione alla vista di Will era di una luminosità solare che rendeva ancora più incerta la sua mutevole espressione. I suoi stessi tratti cambiavano veramente di forma. La mascella talvolta pareva grande, talvolta piccola, e la minuscola increspatura sul naso era il preludio a una metamorfosi. Quando voltava rapidamente il capo, i suoi capelli sembravano diffondere luce e alcune persone pensavano di scorgere una genialità decisa in questo scintillio. Mr. Casebo invece non irradiava nulla. Mentre gli occhi di Dorotea erano rivolti ansiosamente al marito, forse non era insensibile al contrasto, ma questo era solo uno dei motivi che la rendevano più consapevole di quel nuovo senso di preoccupazione per lui, che era il primo agitarsi di una tenera compassione alimentata dalla realtà del destino di Mr. Casebo e non dai propri sogni. Eppure il fatto che Will fosse lì era per lei una fonte di maggiore libertà. Il fatto che anche lui fosse giovane era gradevole, magari anche la sua disponibilità a ricredersi. Lei provava un immenso bisogno di avere qualcuno con cui parlare e mai prima da allora aveva visto nessuno che sembrava così vivo e così duttile, che prometteva tanto di comprendere ogni cosa. Mr. Casebo disse in tono grave di sperare che Will trascorresse profittevolmente, oltre che piacevolmente, il proprio tempo a Roma. Aveva pensato che fosse sua intenzione di restare nella Germania meridionale, ma lo pregò di venire a cena il giorno successivo, quando avrebbe conversato più diffusamente. Al momento era piuttosto stanco. Ladislav capì e, accettato l'invito, si congedò immediatamente. Gli occhi di Dorotea seguirono il marito colmi d'ansia, mentre egli si lasciava sprofondare, esausto, a un'estremità di un divano e, appoggiato il gomito per sostenere il capo, guardò il pavimento. Arrossendo un po' e con gli occhi lucidi, essa si sedette accanto a lui e disse: Perdonatemi per aver parlato così avventatamente questa mattina. Avevo torto. Temo di avervi ferito e di avervi reso la giornata più pesante. Sono lieto che la pensiate così, mia cara, disse Mr. Casebo. Parlò con calma e piegò un po' il capo, ma nei suoi occhi vi era ancora un senso di disagio quando la guardò. Ma mi perdonate davvero? Chiese Dorotea con un rapido singhiozzo. Bisognosa com'era di una qualche manifestazione di sentimento, era disposta ad esagerare la propria colpa. L'amore non avrebbe visto la penitenza tornare di lontano e non l'avrebbe abbracciata e baciata. Mia cara Dorotea, chi del pentimento non è soddisfatto non è per il cielo né per la terra fatto. Non pensate che mi meriti di essere bandito da questa severa sentenza? Disse Mr. Casebo, sforzandosi di pronunciare una dichiarazione energica e anche di sorridere debolmente. Dorotea rimase in silenzio, ma una lacrima che era salita col singhiozzo insisteva a voler cadere. Siete nervosa, mia cara, e anch'io sento qualche spiacevole conseguenza di un eccessivo turbamento mentale, disse Mr. Casebo. In effetti, avevo intenzione di dirle che non avrebbe dovuto ricevere il giovane Ladislav in sua assenza, ma si trattenne, in parte perché sentiva che sarebbe stato scortese rimproverarla di qualcos'altro nel momento in cui si riconosceva pentita, in parte perché voleva evitare di innervosirsi ulteriormente parlando, e in parte perché era troppo orgoglioso per rivelare quell'indole gelosa che non si era sfogata verso i suoi dotti compari, al punto che non ne fosse restata nemmeno un po' da rivolgere altrove. Vi è una specie di gelosia che ha bisogno di poca esca. Non è una passione, ma una ruggine nata nello scoramento torbido e umido di un egoismo inquieto. Penso sia tempo che ci vestiamo, aggiunse guardando l'orologio. Si alzarono entrambi e fra loro non si parlò mai più di ciò che era accaduto quel giorno. Ma Dorotea lo ricordò fino all'ultimo, con l'intensità con cui tutti ricordiamo i grandi momenti della nostra esperienza, quando qualche cara speranza muore o qualche nuovo motivo nasce. Quel giorno aveva cominciato a capire di essersi pazzescamente illusa nell'attendersi una risposta ai propri sentimenti da parte di Mr. Casebo e aveva avvertito il destarsi di un presentimento che forse c'era una triste consapevolezza nella vita di lui, che creava un bisogno di conforto altrettanto grande quanto in lei. Tutti noi nasciamo nella stupidità morale, prendendo il mondo come una mammella per nutrire i nostri ego supremi. Dorotea aveva iniziato presto a emergere da quella stupidità, eppure sarebbe stato più facile per lei immaginare come si sarebbe dedicata a Mr. Casebo e diventare saggia e forte della forza e della saggezza di lui, che rendersi conto con quella chiarezza che non è più riflessione, ma sentimento, un'idea riportata nell'immediatezza della sensibilità, come la solidità degli oggetti, che egli aveva un io equivalente al suo, da cui le luci e le ombre dovevano sempre cadere con una certa diversità. Capitolo 22. Will Ladislav fu deliziosamente simpatico a cena il giorno successivo e non diede motivo a Mr. Casebo di mostrare alcuna disapprovazione. Al contrario, a Dorotea parve che Will avesse un modo più indovinato di coinvolgere il marito nella conversazione, di ascoltarlo con deferenza, di quanto avesse mai osservato in nessun altro in precedenza. Certo, gli ascoltatori nei dintorni di Tipton non erano ricchi di doti. Will stesso parlò molto, ma ciò che disse fu buttato lì con una tale rapidità e con un'aria umile, come se dicesse qualcosa per inciso, che parve il gaio scampanio che segue la grande campana. Se Will non era sempre perfetto, quella fu certamente una delle sue giornate migliori. Descrisse dettagli di incidenti fra i poveri di Roma, quali poteva vedere solo uno che si poteva spostare liberamente. Si trovò d'accordo con Mr. Casebo sulle opinioni infondate di Middleton, sui rapporti fra giudaismo e cattolicesimo, e passò facilmente a un quadro semi-entusiasta e semi-giocoso del godimento che ricavava dalla poliedricità stessa di Roma, che rendeva la mente flessibile per i costanti paragoni e risparmiava uno di considerare le epoche della storia del mondo come un insieme di compartimenti stagni senza rapporti vitali. Gli studi di Mr. Casebo, qui lo osservò, erano sempre stati di una qualità troppo ampia per questo, ed egli non aveva forse mai provato alcun effetto così improvviso. Ma quanto a sé, confessò che Roma gli aveva offerto un senso del tutto nuovo della storia. I frammenti gli stimolavano l'immaginazione e lo rendevano costruttivo. Poi, di quando in quando, ma non troppo spesso, si rivolse a Dorotea e discusse con lei, come se le sue sensazioni dovessero essere prese in considerazione persino in un giudizio definitivo della Madonna di Foligno o del Laoconte. La sensazione di contribuire a formare l'opinione del mondo rende una conversazione particolarmente allegra e anche Mr. Casebo provò orgoglio per la propria giovane moglie, che parlava meglio della maggior parte delle donne, come in effetti aveva notato quando l'aveva scelta. Poiché le cose procedevano in modo così piacevole, L'affermazione di Mr. Casaubon che avrebbe sospeso le proprie fatiche alla biblioteca per un paio di giorni e che dopo una breve ripresa non avrebbe avuto ulteriori motivi per trattenersi a Roma, incoraggiò Will a insistere perché Mrs. Casaubon non se ne andasse senza aver visto uno studio o due. Mr. Casaubon non l'avrebbe accompagnata? Questo genere di cose non si dovrebbero perdere. Era del tutto speciale, era una forma di vita che cresceva come una piccola vegetazione nuova, con la sua popolazione di insetti su enormi fossili. Will sarebbe stato felice di accompagnarli. Nulla di tedioso, solo alcuni esempi. Mr. Casaubon, nel vedere che Dorothea lo guardava con aria pressante, non poté fare meno di chiederle se fosse interessata a tali visite. Adesso era al suo servizio per intera giornata e fu concordato che Will sarebbe venuto il mattino successivo e li avrebbe accompagnati in carrozza. William non poté tralasciare di accompagnarli da Thor Valdelsen, una celebrità vivente su cui persino Mr. Casaubon chiese informazioni. Ma prima che il giorno fosse avanzato, fece loro strada fino allo studio del suo amico Adolf Neumann, che citò come uno dei principali innovatori dell'arte cristiana, uno di coloro che non solo avevano resuscitato, ma ha diffuso la grandiosa concezione di eventi supremi come misteri, di cui le successive epoche erano spettatrici e in rapporto ai quali le grandi anime di ogni periodo divenivano per così dire contemporanee. Will aggiunse che al momento si era fatto discepolo di Neumann. Ho eseguito alcuni schizzi a olio sotto la sua guida, disse Will. Detesto copiare, devo metterci dentro qualcosa di mio. Neumann ha dipinto i santi che trascinano il carro della chiesa e io ho fatto uno schizzo del Tamerlano di Marlowe che sospinge i re vinti sul suo crocicchio. Non sono religioso come Neumann e qualche volta lo canzono per il suo eccesso di significati, ma questa volta intendo superarlo per ampiezza di propositi. Paragono Tamerlano nel suo cocchio al tremendo corso della storia fisica del mondo che manda avanti a frustate e dinastie bardate. Secondo me, non è una buona interpretazione mitica. Will a questo punto diede un'occhiata a Mr. Casaubon, il quale accolse questo disinvolto trattamento del simbolismo con grande imbarazzo e si inchinò con aria indifferente. Lo schizzo deve essere grandioso se vuol dire tanto, disse Dorothea. Avrei bisogno che mi spiegaste un po' anche il significato che voi gli date. È vostra intenzione che Tamerlano rappresenti terremoti e vulcani? Oh sì, disse Will ridendo, emigrazioni di razze e di sboscamenti, e l'America, il motore a vapore, tutto quello che vi riesce di immaginare. Che genere difficile di stenografia, disse Dorothea sorridendo alla volta del marito. Ci vorrebbero tutte le vostre conoscenze per poterla leggere. Mr. Casaubon batté furtivamente le palpebre alla volta di Will. Aveva il sospetto di venir preso in giro, ma non era possibile comprendere Dorothea nel sospetto. Trovarono Neumann intento a dipingere laboriosamente, ma nessuna modella era presente. I suoi quadri erano disposti in modo conveniente e la sua persona vivace dall'aspetto comune era messa in risalto da un camiciotto color tortora e da un berretto di velluto marrone, così che tutto aveva la fortuna di essere come se egli avesse aspettato la bellissima signora inglese esattamente a quell'ora. Il pittore, nel suo inglese baldanzoso, pronunciò una piccola dissertazione sui suoi soggetti compiuti e incompiuti, dando l'impressione di osservare Mr. Casaubon allo stesso modo in cui osservava Dorothea. Will si intromise qua e là con ardenti parole di lode, facendo notare pregi particolari dell'opera dell'amico. E a Dorothea parve di farsi delle idee completamente nuove sul significato di madonne sedute sotto inesplicabili troni con baldacchino. La semplice campagna per sfondo e di santi, con modelli di edifici in mano o con pugnali accidentalmente conficcati nel cranio. Alcune cose che le erano sembrate mostruose acquistavano un'intelligibilità e persino un significato naturale, ma tutto ciò evidentemente era un ramo del sapere di cui Mr. Casaubon non si era interessato. Credo che preferirei sentire che un dipinto è bello piuttosto che essere costretta a interpretarlo come un enigma, ma imparerei a capire questi quadri prima del vostro. Con quel grandioso significato, disse Dorothea parlando a Will. Non parlate della mia pittura in presenza di Neumann, fece Will. Vi dirà che è tutta Fischerei, porcheria, che è la parola più obbrobriosa, disse Dorothea, volgendo gli occhi sinceri verso Neumann, che fece una piccola smorfia e disse: Oh, lui non dipinge sul serio. La sua professione deve essere quella delle belles lettres. Quella è ampia. Il modo di Neumann di pronunciare la vocale parve dare un tono satirico alla parola. A Will non piacque per niente, ma riuscì a ridere, e a Mr. Casaubon, pur provando un certo disagio, Per l'accento tedesco dell'artista cominciò a nutrire un po' di rispetto per la sua severità di giudizio. Questo rispetto non scemò allorché Neumann, dopo aver tirato in disparte Will per un momento e aver osservato prima un'ampia tela e poi Mr. Casabo, si fece avanti di nuovo e disse: Il mio amico Ladislav pensa che voi mi perdonerete, signore, se dico che uno schizzo della vostra testa mi sarebbe preziosissimo per il San Tommaso d'Aquino di quel mio quadro. È chiedere troppo, ma vedo così di rado proprio quello che cerco, l'ideale nel reale. Mi stupite assai, signore, disse Mr. Casabo, mentre un bagliore di piacere gli affinava lo sguardo. Ma se la mia povera fisionomia, che sono stato abituato a considerare del tipo più comune, vi può essere di qualche utilità per suggerirvi qualche tratto per l'angelico dottore, mi sentirò onorato. Voglio dire, se l'operazione non sarà lunga e se Mrs. Casabo non avrà da ridire sul ritardo. Quanto a Dorotea, nulla sarebbe potuto riuscirle più gradito, a meno che una voce miracolosa avesse dichiarato solennemente che Mr. Casabo era il più saggio e degno dei figli degli uomini. In quel caso la sua fiducia vacillante si sarebbe di nuovo riconfermata. L'attrezzatura di Neumann era portata di mano meravigliosamente al completo e lo schizzo procedette immediatamente assieme alla conversazione. Dorotea si sedette e cadde in un silenzio tranquillo, sentendosi più felice di quanto le accadesse da molto tempo. Tutti coloro che la circondavano sembravano buoni e si disse che Roma, se solo lei fosse stata meno ignorante, sarebbe stata piena di bellezza. La sua tristezza avrebbe acquistato le ali della speranza. Nessuna natura poteva essere meno sospettosa della sua. Quando era bambina credeva nella gratitudine delle vespe e nell'onorevole suscettibilità dei passerotti e in proporzione si adirava tanto di più quando la loro meschinità si rivelava. L'abile artista stava ponendo a Mr. Casabo delle domande sulla politica inglese, il che diede la stura a lunghe risposte, e Will, frattanto, si era seduto su un gradino in fondo allo studio, dominando il tutto. Ben presto Neumann disse: Ora, se potessi mettere questo da parte per mezz'ora e poi riprenderlo, vieni a vedere, Ladislav. Penso che fino a questo punto sia perfetto. Will si lasciò sfuggire quelle interiazioni che sottintendevano che l'ammirazione è troppo viva per la sintassi, e Neumann disse in tono di pietoso rammarico: Adesso, se avessi soltanto potuto avere più tempo. Ma avete altri impegni? Non potrei chiedervelo, magari, di tornare domani. Oh, restiamo, fece Dorotea. Oggi non abbiamo niente da fare tranne andare in giro, no? Soggiunse, guardando con insistenza Mr. Casabo: Sarebbe un peccato non fare la testa il meglio possibile. Sono ai vostri ordini, signore, per questa faccenda, disse Mr. Casabo in tono di educata condiscendenza, avendo dedicato all'ozio l'interno della mia testa. Tanto male che l'esterno lavori in questo modo. Siete di una bontà indescrivibile. Adesso sono felice, disse Neumann. E poi proseguì in tedesco, rivolto a Will, additando qua e là lo schizzo, come se lo stesse prendendo in esame. Messolo da parte per un momento, si guardò intorno con aria incerta, come se cercasse di occupare i suoi visitatori in una qualche attività, e poi, voltandosi verso Mr. Casabo, disse: Forse la stupenda sposa, la graziosa signora, non sarebbe contraria a lasciarmi riempire il tempo tentando di fare un piccolo schizzo di lei. Non, naturalmente, come vedete, per quel quadro, solo come uno studio a sé. Mr. Casabo, inchinandosi, non dubitò che Mrs. Casabo gli avrebbe fatto questo favore e Dorotea disse subito: Dove devo mettermi? Neumann fu tutto scuse quando le chiese di stare in piedi e di consentirgli di metterla in posa, cosa a cui essa si sottomise senza alcuna delle affettazioni e risate di frequente considerate necessarie in tali occasioni. Allorché il pittore disse: È Santa Clara che voglio che rappresentiate, appoggiata così, con la guancia contro la mano. Così, guardando quello sgabello, vi prego, così. Will era lacerato dal desiderio di cadere ai piedi della santa e baciarle la tunica e dalla tentazione di atterrare Neumann con un pugno mentre le sistemava il braccio. Tutto questo era un'impudenza e una profanazione e si pentì di averla accompagnata lì. L'artista fu coscienzioso e Will riprese il controllo di sé, si mosse e tenne occupato Mr. Casabo nella maniera più ingegnosa possibile. Ma alla fine non poté evitare che il tempo sembrasse lungo a quel signore, come questi lasciò intendere quando espresse la preoccupazione che Mrs. Casabo fosse stanca. Neumann capì al volo e disse: Ora, signore, se volete ancora farmi il favore, rimetterò in libertà la signora moglie. Così la pazienza di Mister Chesebo tenne duro ancora più a lungo, e quando alla fine si capì che la testa di San Tommaso d'Aquino sarebbe stata più perfetta se si fosse potuta tenere un'altra seduta, questa fu accordata per il mattino successivo. Il mattino successivo anche Santa Clara fu ritoccata più di una volta. Il risultato del tutto fu così lungi da dispiacere a Mister Chesebo che questi si accordò per l'acquisto del quadro, in cui San Tommaso d'Aquino sedeva tra i dottori della chiesa impegnato in una disputa troppo astratta per venire rappresentata, ma ascoltata con maggiore o minore attenzione da un pubblico celeste. Della Santa Clara, di cui si venne a parlare in seguito, Neumann si dichiarò insoddisfatto. Non poteva in coscienza impegnarsi a farne un quadro degno della modella, cosicché per la Santa Clara gli accordi restarono in sospeso. Non mi soffermerò sulle battute di Neumann alle spese di Mister Chesebo quella sera, o sui dittirambi riguardo al fascino di Dorotea, ai quali Will aderì completamente ma con una differenza. Non appena Neumann accennò un qualsiasi dettaglio della bellezza di Dorotea, Will si irritò per la presunzione. C'era volgarità nella scelta delle parole più comuni, e che diritto aveva lui di parlare delle sue labbra? Non era una donna di cui si potesse parlare come delle altre donne. Will non riusciva a dire esattamente cosa pensava, ma divenne irritabile. Eppure, quando dopo una certa resistenza aveva acconsentito ad accompagnare Chesebo allo studio dell'amico, era stato allettato dall'orgogliosa gratificazione per essere la persona che poteva offrire a Neumann una simile occasione per studiare la sua bellezza, o meglio, la sua qualità divina. Perché le espressioni comuni che avrebbero potuto valere per la semplice grazia fisica non potevano valere per lei. Certo, tutta Tipton e i dintorni, oltre alla stessa Dorotea, si sarebbero sorpresi del fatto che si desse tanto peso alla sua bellezza. In quella parte del mondo Miss Brooke era stata solo una ragazza graziosa. Fammi il favore di lasciar perdere l'argomento, Neumann. Non si può parlare di Mrs. Chesebo come se fosse una modella, disse Will. Neumann gli fece tanto d'occhi. Sean, parlerò del mio Aquinate. La testa non è brutta. Tutto sommato, oserei dire che il gran scolastico stesso si sarebbe lusingato a sentirsi chiedere di fargli un ritratto. Non c'è niente di simile a questi dottori inamidati quanto a vanità. Era come pensavo, gli importava molto meno il ritratto di lei che il proprio. È un maledetto bell'imbusto pedante senza sangue, esclamò Will con digrignante violenza. Il suo ascoltatore non era a conoscenza dei suoi obblighi verso Mister Chesebo, ma Will ci stava pensando e avrebbe voluto sdebitarsene con un assegno. Neumann scrollò le spalle e disse: È un bene che se ne vadano presto, mio caro. Stanno rovinando il tuo bel carattere.